Allora, come diceva Roberto prima, ovviamente in 20 minuti, tre quarti d'ora non è che si possa fare una lezione di etologia, no? Però anch'io vi voglio, diciamo, il mio obiettivo più che altro è di portare degli spunti. Allora, e degli spunti, io vorrei partire con una cosa che ha scritto proprio Roberto ieri, mi pare, o due giorni fa, insomma. Allora, ve la leggo. Questo è uno stato su Facebook che io ho amato molto, e partire da qua. Siamo sempre preoccupati di limitare i problemi al nostro cane per poi fornirgli giochetti ripetitivi che chiamiamo per assurdo di attivazione mentale. Ma il benessere non nasce dall'inattività fisica e cognitiva, bensì dalla piena espressione del corpo. L'esercizio motivazionale, l'attività fisica, seppur stancante, la palestra percettiva ed estetica, il dover autonomamente raggiungere alcuni obiettivi, persino modiche situazioni di stress, rappresentano un toccasana cognitivo per il cane, perché mettono in circolo i neuromodulatori di orientamento, appagamento, gratificazione e compensazione. Siamo nati per fare, noi come i nostri cani, e costruiamo il nostro benessere nell'azione. Allora, a me è piaciuto da morire questo stato, perché secondo me ricalca perfettamente l'approccio che l'uomo moderno, l'uomo attuale, ha, soprattutto l'uomo occidentale, ha nei confronti degli animali, non solo del cane, perché io, se ci sostituissi la parola gatto in questo stato, la cosa continuerebbe assolutamente a valere. Cioè, tendiamo a vivere delle vite sempre più claustrofobiche, ci chiudiamo nelle nostre case, nei nostri uffici, nei nostri palazzi, nelle nostre città, che sono delle infinite colate di cemento fondamentalmente, e in questa clausura, con l'idea dell'affetto, dell'amore, della passione, ci portiamo dentro i nostri animali, dimenticando che esattamente come l'inattività danneggia la nostra psiche e il nostro corpo, allo stesso modo questo vale anche per gli animali. Io oltre che occuparmi di gatti, mi occupo anche di cani, sono anche un'educatrice cinofila, anche se diciamo è un ambito che cerco di rimanere, di lasciare più limitato, perché voglio occuparmi maggiormente di gatti, sostanzialmente. E un problema comune che io trovo sempre è la sottovalutazione di quanto per il cane, ma anche per il gatto, sia importante esprimersi col corpo, sia importante uscire banalmente, stare a contatto con la natura, stare a contatto con il verde, avere la possibilità di esistere come animali. Prima Roberto ci ha detto, loro vivono in una realtà completamente diversa dalla nostra. Questo vuol dire che cercano anche delle cose diverse nel mondo rispetto a quelle che vediamo noi, io vi direi anche rispetto a quella a cui noi diamo valore. Per un cane, una corsa in un prato, in un appezzamento in campagna è un tesoro inestimabile. Io ho tanti clienti ai quali pesa anche la passeggiatina domenicale con il cane. Già chiedergli di un'uscita in più per portare fuori il cane, perché magari sta mostrando tutta una serie di problemi. Sono problemi relativi al fatto che non esiste mentalmente, fisicamente. Per loro è già un problema, è già difficile. E ahimè, poi no, il lavoro, la professione mi impone sempre di prendere in maniera empatica queste situazioni e cercare delle soluzioni, di comprendere i problemi anche delle persone, no? Perché viviamo delle vite stressanti, abbiamo orari strani, viviamo per il lavoro sostanzialmente, quando dovrebbe essere il contrario. E quindi poi non è che questo può diventare un atto d'accusa nei confronti delle persone che hanno un cane e lavorano, però bisogna iniziare a dirsi che per riuscire a vivere bene con un cane, per riuscire a vivere bene con un gatto, è necessario avere una idea di quali sono le caratteristiche, i bisogni di questi animali, e domandarsi, come diceva prima Stefania, e domandarsi se siamo adeguati ad averli con noi, ad averli accanto. Magari non è così, magari siamo in un momento della nostra vita che non ci permette, per esempio, di dedicare al cane il tempo di qualità, ma anche di quantità che necessita. Magari viviamo in un contesto che non è adatto ad accogliere un gatto, perché anche sul gatto ci sono un mare di fraintendimenti, a partire dall'idea che una volta che io gli ho messo a disposizione una cassettina e una ciotola piena, di cosa ha bisogno altro? Il gatto ha bisogno del mondo fuori, banalmente. Questa cosa dei giochini di attivazione mentale, non so se li conoscete, in pratica sono dei giochi che di solito si tratta di manipolare il cane o il gatto, li manipola o fa rotolare delle palline oppure apre dei cassetti per conquistarsi il cibo che viene nascosto all'interno. Io mi ricordo nel 2007, quando ho iniziato a studiare, mi venne insegnato che mi rimarrà sempre in mente questa cosa, mi venne insegnato che potevano essere vissuti come un'alternativa alla passeggiata per il cane, quindi nelle giornate di pioggia, invece che portare fuori il cane, si poteva dare il giochino in maniera che il cane si sfogasse il suo bisogno, no? Di attivarsi attraverso questi giochini. È una follia. Questo è... Sì, esatto. Questo è esattamente banalizzare la mente animale, no? Cioè non rendersi conto di quali contributi enormi loro riescono ad avere dal contatto con la natura, dalla possibilità di fare le cose per cui sono nati, l'esplorazione, la perlustrazione. Io dico anche, nel caso dei gatti, anche il litigio con i gatti vicini che vengono a competere per il territorio, le scazzottate, ci stanno anche quelle, il mondo dei gatti è fatto anche di queste cose. Tutte queste cose noi ce le stiamo scordando, ce le stiamo perdendo per strada. Ci viene detto che, tutto sommato, basta fornire gli stimoli giusti e l'animale è soddisfatto. Dove di solito lo stimolo è un oggetto, magari dietro c'è un premio, magari c'è una piccola difficoltà, e non ci rendiamo conto che gli animali invece, quando sono a contatto con la natura, quando hanno la possibilità di esprimere se stessi, riescono a porsi degli obiettivi e a risolvere delle situazioni molto più complesse di uno stupido cassettino finto da aprire per raggiungere un biscottino che è nascosto all'interno. Voglio darvi un'immagine di questa complessità. Sui gatti sono stati fatti degli studi molto interessanti sul loro modo di spostarsi nel territorio. Allora, questo è uno studio del 2012, sono delle foto ottenute applicando al collare di alcuni gatti un GPS, quindi sono riusciti a tracciare per 24 ore nell'arco di una settimana i percorsi che venivano compiuti da 50 gatti che vivevano in questo paesino dell'Inghilterra. E la cosa fantastica è che la cosa che viene subito alla vista, la cosa immediatamente evidente è che questi gatti si muovono lungo una rete di percorsi. Queste linee che vedete sono i tragitti che questi gatti che ogni singolo gatto ha compiuto. C'è un colore per gatto, quindi abbiamo questo è un maschio, questo è un maschio e questa è una femmina. E la cosa bella di queste immagini, ci confermano quello che ci diceva prima Roberto, cioè i gatti si proiettano al di là della casa di appartenenza. In realtà loro si legano ad un territorio e lo fanno in maniera stabile, ed è un territorio che quotidianamente, costantemente perlustrano, battono, marcano, cercano di ridefinire costantemente come loro. Se lo discutono anche con i gatti vicini, perché no? L'altra cosa interessante, sempre riagganciandoci a quello che ci diceva Roberto, sono tutti diversi. Vedete che queste reti che vengono costruite attraverso una fitta mediazione quotidiana con altri gatti, sono tutte diverse. Il gatto in blu, questo si chiamava Didi, vede che ha un territorio che si estende molto più rispetto a Claude e rispetto a Thomas. Come mai? E chi lo sa? Nel senso, nel modo in cui un gatto si muove nel suo territorio entrano in gioco un sacco di variabili. La sua sicurezza personale, quanto si sente sicuro questo individuo, quanto è forte fisicamente, quanto è forte emotivamente, quali sono gli ostacoli che incontra. Un gatto può decidere di tagliare un pezzo del suo territorio perché magari è sopraggiunto un nuovo gatto in quella zona, o perché magari è arrivato un cane, o perché magari sono stati fatti dei lavori e allora la struttura del territorio è cambiata, i suoi percorsi non sono più sicuri come lui se li era costruiti, quindi li ridefinisce. Ci sono mille motivi che portano un gatto ad ampliarsi o ad estendersi in un certo modo piuttosto che in un altro. Un'altra caratteristica interessante, faccio vedere un'altra foto, è che questo è uno studio, un lavoro del 2010, ottenuto sempre con la stessa tecnologia, cioè GPS al collare, tracciamo le rotte dei gatti. La cosa è, qui venivano messi a confronto gatti che vivevano in ambiente rurale, suburbano, come può essere San Giovanni in Piscicello, e un ambiente invece un po' più cittadino. L'altra cosa che veniva fuori costantemente era che i gatti tendevano a occupare, a muoversi lungo zone ricche di verde, ricche di alberi, ricche di cespugli, cioè zone dove loro frequentemente potessero nascondersi alla vista. I gatti sono animali che si spostano lungo un territorio anche vasto, come abbiamo visto prima, però dipende anche quanto sono in grado di mettersi costantemente in sicurezza. Rispetto ai cani, non si muovono in gruppo, si muovono in maniera solitaria, quindi devono guardarsi loro alle spalle. La loro sicurezza personale è tutta nelle loro mani, per cui sono loro che devono riuscire a muoversi nello spazio garantendo la massima tutela personale. Questo è così, non è oggi, non sono i gatti del 2015 che sono così. Lo erano già 10.000 anni fa, quando si sono approcciati all'uomo. Quindi questo che cosa ci suggerisce? Questa è un'altra foto, guardate che carina anche questa. Il gatto viveva qui, e come vedete la struttura del territorio sembra un po' una stella, però in maniera un po' impazzita, no? Un po', proprio perché in realtà quando lui riesce ad estendersi dipende anche dalla struttura del territorio. Guardate l'uso intensissimo delle parti alberate rispetto invece alle parti scoperte, non è mica un caso, perché questo garantisce loro di potersi muovere, di potersi spostare senza essere intercettati. O anche, se volete, garantisce loro che in caso di problemi riescono a conquistare una via di fuga. La via di fuga tipica è l'albero, è proprio tipica. A me è successo un sacco di volte, andando sugli argini con il mio cane, di beccare un gatto nascosto nell'erba, e quelle poche volte che il cane se ne accorgeva, perché loro poi nell'immobilità riescono molto spesso a sfuggire anche, e partiva l'inseguimento costantemente, il gatto la prima cosa che cercava di fare era guadagnare un albero fisso. Più alto era l'albero, meglio è, perché questo garantisce loro di non potersi separare, di poter creare una distanza che il predatore, in questo caso il cane, non è in grado di colmare. E questa è una cosa, il bisogno di altezza, che se noi li osserviamo, anche i gatti che vivono in casa con noi, è una cosa che esprimono costantemente, frequentemente, fa parte del loro modo di stare al mondo. Mentre noi siamo degli individui che, diciamo, viviamo su due dimensioni, sulla larghezza e sulla lunghezza, loro invece vivono anche sull'altezza, e per loro ha assolutamente lo stesso identico valore. È il motivo per cui hanno tutta questa fissazione di salire sui tavoli, il motivo per cui non c'è verso di insegnargli a non farlo, ed è giusto che sia così, proprio perché per loro è una dimensione esistenziale. Questa foto l'ho scattata, prima di questo vi dico, è una condizione esistenziale, è un loro modo di essere, di usare fisicamente lo spazio, è anche un modo di mettersi in sicurezza, come vi ho detto prima, però è anche un modo, in maniera molto più tranquilla, molto più serena, di controllare il territorio. Un individuo come il gatto, che ha perennemente bisogno di sapere cosa succede nel suo territorio, perché, come vi dicevo prima, si prende la totale responsabilità di se stesso, della sua incolumità e di quello che gli succede attorno. Un individuo come il gatto ha il perenne bisogno di essere aggiornato, no? È come se fosse costantemente su Sky TG 24, nel senso, devo sapere cosa succede, devo poter controllare. In caso di bisogno devo anche poter intervenire. Oppure nascondermi o scappare. Il fatto di stare in una posizione sopraelevata, pensate ai gatti che si arrampicano sui frigoriferi, sui mobili, sulle librerie, sui tiragraffi, sui santi tiragraffi, in realtà non stanno facendo altro che conquistarsi una postazione di privilegio da cui controllare quello che succede in casa. Controllare e anche semplicemente monitorare, farsi un'idea di... A volte anche studiare i proprietari, o studiare il cane, studiare in generale le dinamiche che si stanno svolgendo all'interno. Questa foto l'ho scattata una mattina, mi sono alzata, sono andata nella lavanderia, ho ritirato i panni perché la notte avevo fatto andare la lavatrice, esco, salgo su un terrazzo che costeggia questa tettoia. Questa è la tettoia di una piccola legnaia che abbiamo in giardino. Salgo su questo terrazzo, nell'uscire mi avevano preceduto i gatti, come al solito, no? Si apre la mattina la porta, tutti fuori, e salendo queste scale noto lei, una delle mie gatte, che fa questa cosa bellissima, si mette in contemplazione di questo pezzo di giardino, proprio con l'aria di dire: cosa è successo stanotte? Ora mi aggiorno. Era proprio questo, non c'era assolutamente nulla ai miei occhi, non stava succedendo nulla, ma lei era presissima da questa osservazione. Vi faccio notare che questo giardino non è il mio giardino, ma è quello del vicino. E io questa l'ho trovata una cosa estremamente interessante, perché lei si è focalizzata non tanto sul nostro giardino, che è un posto che lei conosce bene, che in qualche modo sa che è tutelato dal cane, per cui tutto sommato posso stare più tranquilla. Si è focalizzata sul giardino del vicino, che invece è scoperto, no? Quindi più accessibile a eventuali competitori, a altri gatti o anche a delle prede potenzialmente. E guardate, 2 minuti dopo, da un'altra posizione, Morgan, un altro dei miei gatti, ha fatto la stessa identica cosa. Sono usciti insieme, ognuno di loro ha... si è scelto la sua postazione preferita, ma entrambi sono usciti per fare la stessa identica cosa, cioè farsi un'idea, un monitoraggio dei dintorni di casa. Casa nostra ha un giardino che fa L. Quindi vedete che in realtà le cose che loro sono in grado di fare, le cose che esprimono a contatto con il mondo, sono molto più complesse di una pallina da rincorrere o di un filo da rincorrere. Per carità, i giochi sono fondamentali. Io dico sempre, far giocare un gatto che vive con noi è importante esattamente quanto mettergli a disposizione la lettiera pulita. Cioè, è proprio prioritario. Però non possiamo pensare, proprio perché non dobbiamo banalizzarli, non possiamo pensare che questo basti a compiere il loro mondo, a perfezionarglielo, a chiuderglielo. Qual è il vero problema secondo me? Magari questo lo lascio anche come input a Roberto. Il problema è, prima vi ho fatto vedere quelle mappe, no? In cui si vedeva molto chiaramente che i gatti prediligono gli ambienti a verde, gli ambienti ben arredati da un punto di vista naturalistico. La domanda diventa allora: se vogliamo continuare a vivere con i gatti e a perseguire anche il loro benessere, che ha appunto anche a che fare con la possibilità per loro di stare a contatto con la natura, che è un problema che abbiamo anche noi, ribadisco, che tipo di città dobbiamo pensare per noi e quindi anche per i gatti? Cioè, città fortemente cementificate, fortemente trafficate, sono ovviamente un problema anche per i gatti, perché sono difficili da percorrere, perché sono piene di rumori, pieni di disturbi che inducono un gatto a ridurre l'estensione del suo territorio, la sua esplorazione, la sua perlustrazione. Ma il fatto che il gatto, a causa di tutti questi disturbi, si autocensuri, non è che vuol dire che allora se la vive bene, perché si è autocensurato lui. Comunque abbiamo un problema per questi animali di convivenza e di buona, di qualità proprio della vita negli ambienti in cui l'uomo persiste. Se consideriamo che dove ci sono gli esseri umani ci sono i gatti, che i gatti seguono l'essere umano pedissequamente in tutto il globo, allora diciamo la mia speranza è che una riflessione sulla relazione con il gatto a 360 gradi possa iniziare a essere anche uno stimolo per iniziare a porci delle domande su come pensiamo le nostre città, su come le gestiamo, su come le organizziamo, su quante aree verde garantiamo. Perché città di questo tipo, città più a misura di esplorazione, di perlustrazione per i gatti, sono sicuramente città migliori anche per noi.